tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo la morte del professor Giulio Giorello e in particolare cogliamo l'occasione per ricordare il suo libro La libertà della vita, che scrisse con Umberto Veronesi. Leggiamo un breve brano. Chi ci chiede di limitare la nostra autodeterminazione in nome di qualche valore comune? Ma per esempio di certe concezioni di una natura sacra e inviolabile, in realtà non fa che trasformarci da cittadini in sudditi, da liberi in prigionieri, ciò in una sorta di morti pur essendo ancora vivi. Tu stesso, e parla Umberto Veronesi, che scrisse il libro con lui, tu stesso hai più volte citato le parole di Montanelli: non capisco come sia legittimo decidere della propria vita ma non decidere della propria morte. Dal libro di Giulio Giorello, Umberto Veronesi, La libertà della vita, edito da Raffaello Cortina. E la recensione di questo e altri 300 libri laicisti la trovate sul sito del Circolo Culturale Giordano Bruno, alla pagina recensioni. Lo scandalo di Padre Zanotti a Bergamo, 17 giugno 2020. Sullo scandalo Caritas a Bergamo, arresti, denunce, truffe, falsi sfruttamenti e altri misfatti clericali. Adesso vedremo, vi terrò informati dell'evoluzione di questo ennesimo scandalo clericale. Chiesa e criminalità a Caserta. Nella tonaca nascondeva ben 9 cellulari e qui è in corso l'inchiesta. Il cappellano del carcere arrestato in flagranza. Su Rai Storia hanno fatto la biografia di Alexander von Humboldt contro le credenze tradizionali. Il 16 giugno su Rai Storia un bel servizio sulla caccia alle streghe. L'ultimo caso di donna uccisa per stregoneria nel canton Glarona nel 1780, un cantone cattolico ovviamente. Si parla delle responsabilità papali. Giovanni XXII e Innocenzo VIII diedero mandato di uccidere le streghe con apposite bolle. Questo loro atteggiamento costò la vita a ben 40-70.000 persone, quasi tutte donne, e in certi casi furono bruciati anche i bambini. Si è parlato del Museo delle Streghe di Triora, in provincia di Imperia, del caso di Bellezza Orsini, torturata nello stato della Chiesa e condannata a morte. E c'è stato un ottimo intervento del professor Tommaso Di Carpegna Falconieri. Si è parlato anche di Costanza da Libiano, e di cui ricordiamo il famoso film dove c'è la terribile scena della sua tortura. E grave limite del servizio apparso su Rai Storia è il silenzio sulle streghe bruciate da San Carlo Borromeo. Chi va in Svizzera, in Val Mesolcina, nel paesino di Roveredo, trova ancora dei grandi poster fissi, plastificati, che ricordano i crimini di questo santo in tonaca. Tra i combattenti contro la stregoneria si è dimenticato il Tartarotti di Rovereto, mentre ha citato il Muratori e lo Scipione Maffei. Da Como, ricatti hard a due parroci, in sei vogliono patteggiare. Dal giorno del 12 giugno 2020, pagina 26. Pedopornografia e droga. Indagato ad Ascoli Don Alberto Bastoni, cocaina nascosta addirittura nella teca delle ostie. Ingerenze clericali. Omofobia. I vescovi, inutile una nuova legge. Ecco, i vescovi, come al solito, si intromettono negli affari interni dell'Italia. A Pietraligure, inchiesta sulle pompe funebri, indagato anche il cappellano, quindi quest'anno abbiamo doppio misfatto dei cappellani, cappellano dell'ospedale a Pietraligure e cappellano del carcere a Caserta. Sulla TV dei Vescovi si ride dei santi, parodie dell'attore cattolico. Intervistato dal giorno dice: Sicuramente posso aver anche esagerato nel raccontare qualche santo, ma sono convinto che il linguaggio comico abbia bisogno di distruggere qualcosa. Abbasso il Papa, abbasso il Vaticano, viva il libero pensiero, ora e sempre resistenza anticlericale. Passiamo ai misfatti della settimana del mio calendario anticlericale. 14 giugno 1566. Sentenza inquisitoriale di condanna a morte dell'eretico napoletano Pompeo Delli Monti. 15 giugno 2018. L'ultimo tabù cade. Anche le suore raccontano gli abusi sessuali nella chiesa. 16 giugno 2016. Brindisi. Terzo caso in pochi mesi di prete pedofilo scoperto. 17 giugno 1982. L'ex presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi, legatissimo al Vaticano, vittima di un finto suicidio a Londra. 18 giugno 2017. Il Vaticano nomina come finanziere di fiducia Joseph Zara, ex amministratore di banche semifallite. E lo scandalo si indona, quindi si ritorna sempre nella storia della Chiesa. 19 giugno 2018. Il Vaticano anticipa l'Italia, subito i taser ai gendarmi papalini. 20 giugno 2015. Arrestato Don Giorgio Barbacini, ex prete pedofilo Savona, latitante da anni. Domenica 21 giugno 2018, bimbo preso a schiaffi durante il suo battesimo a Champagne in Francia, un video incastra il prete Manesco. Bene, ricordo il mio telefono per chi vuol mandarmi dei messaggi, 331-730-2874. Sul sito del Circolo Giordano Bruno, giordanobrunomi.wordpress.com, tante immagini, notizie e recensioni anticlericali. Saluti a tutti. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. Chiodalo bene, chiodalo forte, che non ci viene più giù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare, che andiamo a inchiodare.